You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24, dove si parla di identità. A volte anche di migrazione, in questo caso proprio di identità, di essere italiani e di essere italiani di un altro colore. Ne parliamo oggi perché abbiamo un ospite che ha scoperto un personaggio che cercheremo di farvi conoscere. Io sto parlando con Mauro Valeri. Buonasera innanzitutto, Mauro. Buonasera a tutti. Benvenuto, è stato nostro ospite Mauro Valeri più volte, uno storico dello sport italiano, a lungo responsabile dell'Osservatorio del Razzismo nel Calcio, sociologo, ha diretto l'Osservatorio Nazionale sulla Xenofobia e ha scritto molti libri su questi temi, sul razzismo, sullo sport, spesso anche da Black Italians a Nero di Roma, a La razza in campo, poi un libro su Balotelli e Campioni d'Italia, di cui abbiamo parlato poco tempo fa. Mauro, l'ultima volta credo che ci siamo sentiti è stato in occasione di una nostra puntata in cui parlavamo dei partigiani neri, dei partigiani italiani di colore, una pagina abbastanza sconosciuta della storia d'Italia, che negli ultimi anni alcuni studiosi hanno cercato di recuperare, tra cui anche tu, seguendo un po' questo filone, hai pubblicato adesso un libro molto interessante, Il generale nero, che racconta la storia di un generale, primo pilota nero di aerei militari, con tanto di brevetto non solo in Italia ma al mondo, un generale nero italiano, è così? Esatto, la storia è quella di Domenico Mondelli, e diciamo che seguo un po' il filone di ricerca che sto sviluppando negli ultimi anni, che è quella proprio di ricordare a tutti che gli italiani erano anche neri, e alcuni di loro sono riusciti anche ad avere, come dire, un certo successo, da Leone Iacovacci, che è stato un pugile campione d'Europa nel 1928, a Alessandro Senigallia, di cui abbiamo anche parlato, che è un comandante partigiano. Questa è una figura un po' particolare perché in realtà ci obbliga un po' a ripensare l'Italia come paese con italiani neri già dalla fine dell'Ottocento, perché Domenico Mondelli nasce in quello che si chiama all'epoca Abissinia nel 1886, quindi diciamo, stiamo parlando più di un secolo fa, ed è arrivato in Italia da bambino, portato da un tenente colonnello di Parma che si chiamava Attilio Mondelli, e stato portato in Italia inizialmente per essere adottato. Poi l'adozione, come cerco di spiegare nel libro, non è andata a buon fine, però questo ragazzo è arrivato in Italia e è diventato poi italiano. Ci sono anche delle testimonianze di repertorio che si possono trovare di lui, ne abbiamo una che è un audio video, noi vi facciamo chiaramente ascoltare l'audio, del 68, un documentario d'epoca della Cineteca di Bologna, sentiamo. La nostra città ha sempre saputo distinguersi, ora come in passato, in diversissimi campi dell'attività umana. Così, 50 anni fa circa, nel campo dell'aeronautica, un suo figlio adottivo, l'attuale generale d'onore Domenico Mondelli, seppe appunto distinguersi come pioniere prima e come pilota poi a bordo dei primi velivoli da caccia e da bombardamento del periodo 15-18. Non sono parole nostre quelle che avete udito. Le ha scritte un cronista del Carlino, il quale ci informa, peraltro, che il vero nome di Domenico Mondelli è Ualdi Selassie, un piccolo eritreo adottato dal cittadino parmense, colonnello Attilio Mondelli, che lo aveva raccolto durante la ritirata di Adua, 1891. Ualdi Selassie, riferisce ancora il Carlino, divenne poi Domenico Mondelli, e la fiaccola d'italianità trasmessagli ne illuminò costantemente il cammino. Domenico Mondelli ha 82 anni e da quando è andato in pensione, quasi 40 anni fa, vive a Roma, nel quartiere Appio Latino, così insomma, come in questo video che vi facciamo ascoltare, che potete ritrovare in rete, si vede anche, no, Mauro, Domenico Mondelli, ma non lo fanno parlare. Esatto, questo è stato un po' un dato curioso, perché mi sono domandato come mai lui avesse accettato di fare questo, di partecipare a questo documentario senza dire una parola. E in realtà la sua storia è molto complicata. Il Verso del Catino, quando l'ha pubblicata, ha fatto un po' un tentativo di renderla, come dire, più semplice. In realtà lui ha una storia che tu hai ricostruito nei dettagli. Sì, perché diciamo che lui diventa italiano, questo è importante ricordarlo, perché in realtà ha fatto il servizio militare in Italia, perché appunto l'adozione non è andata a buon fine, ma all'epoca c'era la legge, che era il codice civile del 1865, che permetteva a un cittadino straniero di diventare italiano se avesse fatto il militare in Italia. Lui l'ha fatto, ha fatto sia il collegio militare e poi la scuola di Modena, dove è uscito tenente dei bersaglieri. Devo dire che i bersaglieri sono stati quelli sicuramente il corpo più aperto nei confronti anche di persone che avevano un colore diverso della pelle. In passato c'era stato già un capitano dei bersaglieri, si chiamava Michele Amatore, che in realtà è un ragazzo sudanese. Quindi c'è questa sorta di storia che Domenico Montelli un po' riprende dentro i bersaglieri, viene molto ben accolto dai bersaglieri, proprio perché in quel caso quello che contava era il cosiddetto amor patrio e non tanto il colore della pelle. Nel caso di Mondelli abbiamo sentito, insomma, in questo audio di repertorio la fiaccola di italianità, da dove arrivava. Raccontaci la storia di lui, che era figlio di questo Mondelli, che era andato in Abissinia, aveva probabilmente conosciuto una donna, si dice che possa essere stato figlio suo naturale, o forse che l'abbia adottato invece. Ci sono due versioni. Esatto, questo è che non sono riuscito a scioglierlo, e forse Mondelli stesso, Domenico Mondelli, non voleva che fosse sciolta, nel senso che lui sui documenti risulta quasi sempre come bambino senza figlio di NN, quindi di genitori ignoti, ma in alcuni casi lui invece rivendica di essere realmente figlio di Attilio Mondelli, e questo, diciamo, cambia un po' le carte, soprattutto nel periodo del fascismo, perché un conto è essere neri e non italiani, non senza genitori, come si diceva una volta, senza gocce di sangue bianco, e un conto invece essere meticci. Lui è riuscito un po' una caratteristica che hanno i meticci che io ho studiato, o gli italiani neri, di essere comunque così un po' costretti a dover dimostrare sempre di essere più bravi degli altri. Lui già quando andava nel collegio militare a 14 anni era già sempre stato nominato capoclasse, un po' come per primeggiare, e questa caratteristica l'ha portata sempre anche quando poi è andato sui campi di battaglia. Inizialmente la prima esperienza, diciamo, di guerra l'ha fatta nella cosiddetta guerra italo-libica, che è la che nasce dopo la guerra italo-turca, quando c'è stata la ribellione da parte dei libici, che non accettavano la colonizzazione italiana, e lui è stato mandato in Libia per combattere, e è stato anche lì promosso, è iniziato la sua carriera militare. Il dato più curioso che mi ha stupito molto è anche il fatto che lui è stato uno dei primi aviatori italiani. All'epoca l'aviazione era qualcosa di assolutamente sperimentale, tant'è che faceva parte del genio militare, non c'era ancora l'aeronautica, perché l'Italia non aveva ancora scommesso su questa nuova arma di guerra, e lui è stato praticamente, se non ricordo male, il 200° italiano ad avere il brevetto, ma in assoluto al mondo è il primo aviatore nero ad aver avuto questo brevetto. E questo non è un dato secondario, perché fa anche capire che l'Italia aveva una visione non razzista all'epoca, nel senso che mentre negli altri paesi i neri non gli veniva data la possibilità di andare a guidare gli aerei, perché per guidare gli aerei c'era l'esigenza di avere il controllo dell'emotività, come si diceva, e nelle teorie razziste, che molto diffuse soprattutto negli Stati Uniti e in molti paesi europei, si consideravano i neri persone che per natura non potevano controllare l'emotività, anzi erano persone che erano vittime di una eccessiva emotività. Quindi il fatto che l'Italia invece abbia deciso che un ragazzo nero potesse guidare gli aerei è una novità assoluta, e anche dovrebbe farci riflettere su quanto all'epoca non c'era questa visione razzista che poi è diventata molto più dominante negli anni, soprattutto negli anni 30. Facciamo una piccola pausa. Franco Schipani, Alessandra Fiori, buongiorno. Tintarella di luna, tintarella color latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Non so se ti chiami Cicilini o Zazà. Nata da smara e sei un fior di beltà, fanciulla smarina, sei più bella per me. E stiamo parlando con Mauro Valeri di questa interessante figura del generale nero Domenico Mondelli, a cui è dedicato questo libro che trovate in libreria proprio in questi giorni, il cui titolo è proprio Il generale nero. Mauro, dicevi che questa adozione però non è andata a buon fine. No, non è andata a buon fine perché all'epoca c'era una regola molto diversa rispetto a quella di oggi, cioè l'adozione era pensata per tutelare le famiglie che non potevano avere figli e non era pensata per tutelare un bambino che aveva invece necessità di vivere in una famiglia. Quindi Attilio Mondelli, la persona che l'ha portato in Italia, a Parma, per un periodo ho provato, dove aspettare che Domenico compisse 18 anni per poter adottare. Nel frattempo Attilio si è innamorato di una ragazza bolognese, ha avuto il primo figlio con questa ragazza e lui ha provato a non riconoscere il figlio perché se riconosceva il figlio perdeva di fatto la possibilità di adottare Domenico. Questo ha creato molte tensioni nel rapporto tra Attilio e la moglie, tant'è che alla fine lui ha deciso di riconoscere il figlio ufficialmente con la moglie e a quel punto non poteva più adottare Domenico. Domenico, che già nelle foto da bambino che possiamo vedere nel tuo libro, insomma, questa espressione è molto triste, manca probabilmente questa figura femminile che proprio non esiste nella sua vita, della mamma. Sicuramente questo è stato uno dei motivi, diciamo, di disagio che lui ha vissuto. Infatti le fotografie che io riporto nel libro evidenzio sempre che lui non sorride mai, cioè perché si capisce che è una sofferenza, è stato portato da un paese dove viveva in un modo più così naturale e portato in una città dove è stato sicuramente ben accolto, a Parma, però il suo sogno era quello di avere una famiglia vera, così probabilmente gli aveva anche promesso Attilio. Il fatto poi di non poter avere questa famiglia l'ha portato invece a essere una persona abbastanza così triste, con problemi poi anche racconto nella relazione con le donne in Italia, e l'ha portato però ancor più a sentirsi dentro il corpo militare come la vera famiglia. Questa è stata un po' la sua scelta, quella di sentirsi pienamente un italiano, un militare italiano. E devo dire, per così anche per far capire cos'era l'Italia dell'epoca, che lui non era l'unico italiano nero nell'esercito italiano. Io nella mia ricerca ne ho individuati almeno altri tre che sono tutti quanti diventati ufficiali nella prima guerra mondiale, che sono Michele Carchidio, Worken Essengal e Zakhe Gabrù, che sono persone che purtroppo non appartengono alla cultura italiana come esempi, ma invece sono delle persone di primo piano anche nella prima guerra mondiale. Arrivano poi anche le leggi razziali, no? E il suo grado di generale lo salva? No, diciamo che anzi, il problema è che lui finisce la prima guerra mondiale da tenente colonnello pluridecorato, con una medaglia d'argento e due medaglie di bronzo. In più era un invalido perché era stato ferito da una granata durante un'azione dove lui aveva combattuto in prima linea, e di colpo, quando arriva il fascismo, già prima delle leggi razziali, lui si trova a vedere la sua carriera bloccata, perché il fascismo inizia a imporre una visione che era all'epoca presente esclusivamente nelle colonie, che sembra così un po' ridicola, ma spiega il passaggio che c'è stato dall'avvento del fascismo in poi, che era una regola che voleva che nessun italiano nero potesse comandare un italiano bianco. Quindi lui non poteva essere mandato via dall'esercito, perché era comunque una persona appunto pluridecorato, anche con una certa fama, e a quel punto viene bloccata la sua carriera, quindi di fatto gli viene chiesto di rinunciare alla divisa e di andare via dall'esercito, cosa che per esempio avviene con un altro tenente colonnello meticcio, che è Michele Carchiglio. La differenza è che Domenico Mondelli, e questo dà un po' anche lo spaccato della sua personalità, decide con molto coraggio di fare ricorso al Consiglio di Stato contro il Ministero della Guerra, che all'epoca voleva dire mettersi direttamente contro Mussolini, e fa questi ricorsi. Fa il primo ricorso dove lui chiede invece che gli venga riconosciuto il passaggio di grado da tenente colonnello a colonnello, e lo vince. A quel punto scatta un meccanismo, diciamo, di vendetta, per cui viene messo in posizione ausiliaria, cioè viene comunque, gli viene tolto la possibilità di essere comunque operativo. Lui fa un secondo ricorso e lo rivince. E a quel punto il fascismo decide di mandarlo proprio fuori organico. Lui fa un terzo ricorso, vince il terzo ricorso. A quel punto però, siamo ormai nel 1936, capisce che il cambiamento nei confronti dei neri italiani e non è diventato strutturale da parte del fascismo, e quindi a quel punto rinuncia a fare altri ricorsi, accetta di essere nominato colonnello ma in posizione ausiliaria. Quindi diciamo lui paga per il colore della pelle il blocco della sua carriera militare per almeno 15-16 anni, riuscirà a sbloccarla soltanto nel 1945. Come mai, Mauro, tu ti sei appassionato a questa storia? Come ci dicevi, non è l'unico militare e anche di grado nero italiano. Perché proprio Domenico Mondelli? E come sei venuto a conoscenza di questa figura? Allora, diciamo che ci sono stati una serie di casi fortuiti, perché in realtà stavo lavorando su un altro meticcio, che è quello che citavo prima, Michele Carchiglio. E diciamo, per gli storici, per chi si occupa di queste cose, l'unica, diciamo, la svolta che c'è nel fare ricerca è riuscire a trovare un parente, perché fare ricerca su questo materiale, su archivi che molte volte sono difficilmente accessibili, e comunque un materiale che è proprio anche difficile da rintracciare, la soluzione molte volte è riuscire ad avere un rapporto con dei parenti. Io ho avuto la fortuna prima di conoscere la figlia di Michele Carchiglio, che mi ha messo a disposizione le lettere che Michele Carchiglio scriveva, perché mi scriveva continuamente a Mussolini chiedendogli: ma perché mi discriminate per il solo colore della pelle? Io sono figlio di un eroe di guerra, e quindi queste lettere sono molto belle, appassionate, anche un bellissimo spaccato di cosa vuol dire essere meticcio in quegli anni. In queste lettere però Michele Carchiglio scriveva sempre: io non ho avuto mai il coraggio che ha avuto invece Domenico Mondelli di fare ricorso contro il Ministero della Guerra e contro il fascismo. Questa cosa mi ha molto incuriosito. Ho avuto la fortuna, grazie anche a delle persone che lavorano a Parma, di entrare in contatto con la nipote, con Rossella Mondelli. Rossella Mondelli, e la fortuna è stata doppia, perché da una parte lei è stata una persona molto disponibile a mettermi a disposizione il materiale, e l'altra fortuna è stata che Domenico Mondelli è stata una persona che ha conservato praticamente tutto della sua storia. Perché è importante, Mauro, oggi ricordare queste pagine della nostra storia? Io sono convinto che noi, l'Italia ha nel suo DNA storico la capacità di saper gestire meglio le differenze. c'è stato un periodo buio, come per me è stato durante il fascismo, dove invece il colore della pelle è diventato un qualcosa di negativo, questa illusione di essere un paese monoetnico, monoraziale, monoreligioso, un po' la paghiamo ancora oggi. Quindi l'importanza di questa storia è ricordarci un po' chi siamo e che cosa abbiamo fatto, anche in positivo nel passato, di capire quali sono stati gli errori commessi laddove abbiamo provato a inserire degli elementi come il concetto di razza e il concetto di colore della pelle come discriminanti, e valorizzare soprattutto ciò che oggi possono essere invece le storie dei ragazzi italiani o non, ma che vivono in Italia da tanti anni con un colore della pelle diversa, con un'origine diversa. E secondo me, come mi è capitato spesso di sentire, le persone rimangono molto stupite quando io racconto la storia di Domenico Mondelli, proprio perché è come se gli si aprisse un mondo, come se non possono più dire ma noi non conosciamo neri e quindi siamo ancora in difficoltà a entrare in rapporto con una persona diversa da me. In realtà noi abbiamo la capacità di riconoscere, di ricordare che non è quello che conta. Nel caso di Domenico Mondelli quello che conta era l'amor patrio, cioè lui diceva spesso: ma se io condivido con te la stessa voglia di essere italiano e sono disponibile anche a mettere a repentaglio la mia vita per l'Italia, qual è la differenza? E questa è una domanda che secondo me dovremmo porci quando noi diciamo che esiste il noi e il loro. Dovremmo capire anche che cosa vuol dire il noi. Noi non è che siamo un paese rigido con una cultura unica, con una lingua unica e con un unico colore della pelle. Siamo stati e siamo ancora oggi, ancora di più, persone che sono capaci a vivere con la diversità. Dovremmo valorizzarla di più e far finta meno di spaventarci ogni volta che si parla di questi argomenti, come se parlassimo di qualcosa di cui non abbiamo memoria. Son deciso stamattina, ma vederti così bella a me viene la tremarella a sparire del mio cuore. Non so se ti chiami Cicililli o Zazà, sei nata da Smara e sei un fior di beltà, fanciulla smarina, sei più bella per me, e ogni giorno alle tre. Serve un passaggio fondamentale, secondo me, di revisione anche storica di quello che è stato, e spaventa molto. Io mi ricordo che durante una presentazione di un libro con altri storici, che era appunto il libro di Alessandro Senigallia, da Negro Ebreo Comunista, uno storico, non sapendo come affrontare il tema di una persona con così tante identità, ha detto pubblicamente: ma poi sarà diventato bianco. Cioè, è come se non sappiamo gestire un'identità così plurima, che invece fa parte della nostra storia. Io quello che sto cercando di fare con grande fatica è proprio per rompere questo discorso di che sono singoli casi. Sto lavorando su un progetto molto ambizioso, che è quello di un'enciclopedia degli italiani neri, perché ci sono figure anche molto interessanti. Faccio un esempio: noi siamo l'unico paese al mondo, cioè come Italia, ad avere una santa nera, che è Bachita, che è una ragazza che è venuta, è stata portata, comprata a un mercato di schiavi da un ragazzo, da una signora poi del genovese, e lei era una ragazza sudanese e poi è vissuto sempre in Italia, parlava solo veneto, è diventata santa. E lo dico perché quando a me capita di andare all'estero, la visione che hanno gli storici dell'Italia è invece una visione molto positiva. Dice: voi avete madonne nere, santi neri, personaggi neri anche di primo piano, sicuramente avete, come dire, degli anticorpi che invece in altri paesi, dove c'è stato più pesante il discorso della schiavitù, dello sfruttamento e del razzismo, non ci dovrebbe essere. Quindi questo è quello che secondo me è più importante. Non ridurlo poi mai a un caso singolo, perché anche nel libro provo a ricordare che c'erano per esempio dei ragazzi medici che hanno combattuto la prima guerra mondiale. La storia la sappiamo soltanto purtroppo di uno, perché è morto durante i combattimenti, e quindi di lui sicuramente si sa la storia, ma ci sono sicuramente altre storie che andrebbero recuperate. Andrebbe un po', secondo me, anche favorito il fatto che le persone che conoscono queste storie abbiano la possibilità di mettere a disposizione i loro documenti, perché io, girando un po' per l'Italia, appunto, come dicevo prima, tra nipoti, figli, ci sono tanti documenti importanti che permetterebbero per far emergere queste storie. Sì. Grazie Mauro Valeri per essere stato con noi questa sera, buona serata. Buona serata a voi, grazie. Grazie anche a Paolo Corleoni per l'assistenza in regia, a tutti voi per l'ascolto. Io vi rinnovo l'appuntamento sabato prossimo, sempre alle 23 sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti, da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little, that's the glory.